Bentornate, bentornati a tutti su le dirette di Radio Wombat. Dopo una lunga pausa estiva, penso di essere uno dei primi che riprende le dirette autunnali. Dopo mille vicissitudini tecniche che ci hanno tenuto occupato largamente tutta l'estate, voi non ve ne siete resi conto, ma noi in realtà abbastanza, almeno io parecchio nel mio delirio tecnologico forzato. Sono stato spesso impegnato a cercare di accrocchiare le nostre strutture tecnologiche che ci permettono di in qualche modo solcare con le nostre voci in qualche forma il mondo digitale e quello etereo, ecco. E quindi ritorniamo a settembre e tra un po' riniziano le scuole, quindi riniziamo anche noi col grembiulino. E quest'oggi ho preparato una ricca collezione di notizie per questa nuova puntata di Coccoli al Silicio, in cui andremo a ravanare un po' nel mondo dell'hacking internazionale per capire un po' che è successo in questa lunga estate. In verità ci sarebbero tante cose. Io ho acchiappato un po' a caso quelle delle ultime settimane, con magari riferimenti a vicende anche più vetuste che però hanno tenuto banco durante tutto l'anno scorso. Quindi dei richiami, un richiamino, un ripassino di inizio stagione, ecco. Quelli che avete ascoltato un pochino all'inizio, vi farò sentire tutta la puntata, sono gli Incredible Bongo Band, una band, diciamo, un caposaldo delle persone a cui piace il funky, e in particolare delle persone a cui piace ballare, si interessano del breaking. È proprio una di quelle che mettono praticamente a ogni jam di breaking. È una cosa che interessa solo a me, mi rendo conto, ma tanto la trasmissione la faccio io, dico un po' quello che mi pare, poi così vi dico anche delle cose che non sono solo informatiche, se no poi pensate che sono noiosetto. Quindi vi faccio ascoltare magari ancora un minutino di questo Incredible Bongo Band, e l'album si intitola Bongo Rock. Lo ascoltiamo praticamente tutto per tutta la puntata. E intanto io mi preparo la prima tranche di notizie. Su questa intro dà sapore addirittura un po' rock'n'rolleggiante, un po' garage dell'Incredible Bongo Band. Partiamo con la prima notizia: pare ci sia un nuovo trend nel mondo dell'hacking interessato al business internazionale, nel senso che sono state bucate due compagnie aeree nel giro di 2 settimane, quindi evidentemente c'è un interesse verso questo tipo di soggetti. Una è la più recente, la British Airways, Airline, scusate, che ha denunciato proprio, penso, tipo l'altro ieri, era tipo il 6 settembre, che gli sono stati sottratti i dati di 380.000 pagamenti avvenuti sulle loro piattaforme webose e la loro app. E questi dati trafugati contengono un po' diciamo di nominativi, nomi, cognomi, date, cioè quei dati che ormai noi siamo abituati a regalare praticamente a tutti, ma contengono anche le carte di credito, i numeri di carte di credito, non contengono i numeri di, cioè i dati diciamo relativi ai passaporti, che è, diciamo è già, dal loro punto di vista è già qualcosa, però in compenso sono partite così 380.000 carte di credito. La British Airways ha detto comunque che insomma ha messo a posto e che ora tranquillamente potete tornare a comprare i vostri biglietti fino al prossimo buco. Cioè, anche prima vi dicevano tranquilli, potete comprare i vostri biglietti, ora non c'è più questo, magari ce n'è un altro, chi lo sa. Chi lo sa, il mondo degli acquisti online funziona un poco così. E in compenso però diceva non hanno preso il numero di passaporti, ma tanto comunque qualche settimana prima erano stati invece presi alla Air Canada, che ha denunciato nelle settimane scorse. Questa è una notizia un poco più vecchiotta, ma neanche tantissimo, è tipo del 29 agosto, che 20.000 dei propri clienti purtroppo sono stati vittime di un hack che interessava la loro app, che ha tipo, loro dicono, circa quasi 2 milioni, 1 milione e 700 mila utenti. 20.000 di questi purtroppo si sono visti sottrarre i dati relativi ai propri passaporti e un po' di altre cose, e non i dati invece relativi alle carte di credito, che pure c'erano, però erano cifrati. Quindi se dovete comprare un biglietto, sapete che l'Air Canada, se dovete andare in Canada, ve le tiene cifrati questi dati. La British Airlines invece loro non si sa bene perché, ma loro no. Loro se li tengono così nel database, è in chiaro. E quindi niente, con questo nuovo trend che attraversa l'internet, non lo so... Provate a creare la vostra compagnia di volo di bandiera più vicina, quella di fiducia, tanto ormai lo fanno tutti vabbè. E il bilancio quindi di questa roba è un discreto malloppo di dati, non si sa bene in mano a chi, non si sa. E quindi tranquilli, insomma, se volete comprare il biglietto, io d'ora in poi vi consiglio, pagate in contanti. Cioè voi andate e dite no, io pago in contanti, ma è meglio il contante, capito? Così non lasciate i numeri da nessuna parte. Ora non so se si può ancora pagare in contanti questi cosi, perché tutti ti spingono sulle piattaforme webose, è un po' un trend, per poi lamentarsi che ti rubano la carta di credito. Tanto comunque alla compagnia tendenzialmente il bilancio di queste cose, a parte il danno d'immagine, ne frega nulla, perché tanto se comunque saranno minimo assicurati. Alla fine poi quello che va a rimetterci è quello che gli ha lasciato i dati, che poi siete voi. Ecco. We'll be right back. La prossima notizia invece è un ripassino di cose accadute un po' di anni fa, perché vi ricordate quando avevano bucato praticamente tutta la piattaforma informatica della Sony? Io vagamente me lo ricordavo, i dettagli non me li ricordavo, so che era stato un bel danno, cioè gli hanno portato via tipo il 70%, gli hanno violato più del 70% della loro infrastruttura, avevano tirato fuori un po' di tutto, tra cui script, numeri di telefoni degli attori, film non ancora rilasciati, cioè 200 giga di roba, e era passata come, almeno era stata passata da alcuni giornali, come una sorta di ritorsione della Corea del Nord per un film che la Sony aveva fatto uscire nel 2014. Il film si intitolava The Interview e niente, era una commedia su dei giornalisti che sostanzialmente erano stati reclutati dalla CIA per assassinare Kim Jong-un, e questo è una delle vicende. L'altra vicenda su cui vi volevo fare il ripassino era WannaCry. WannaCry, se vi ricordate, che era quel ransomware che aveva spopolato l'estate scorsa, sì, era il 2017, era un ransomware che utilizzava delle tecniche, cioè un exploit che sostanzialmente era stato rilasciato da un leak che interessava al governo, le intelligence americane, quindi era una roba prodotta dal governo americano, e quando è stato rilasciato questo leak, sostanzialmente qualcuno ha preso gli esploit, gli attacchi che c'erano dentro, e ci ha fatto un bel ransomware. Ecco, anche per questo erano stati tacciati i nordcoreani. Ora pare che il Dipartimento degli Stati Uniti abbia non solo, come diceva, indicato il governo nordcoreano genericamente come responsabile, e in particolare il famigerato Lazarus Group, che era questo gruppo di hacker legati al governo ancora, ma pare abbia anche detto che ricercano una persona precisa. Il ricercato è tale Park Jing-yok, che io non ho il piacere di conoscere. La cosa buffa di questo video qui, che nel sito dove ho preso questa informazione, che è di Hacker News, ma lo trovate anche in giro, ci sono un sacco di grafici che spiegano tutta l'indagine, come è stata condotta, e fanno tutto questo lavoro di rintracciamento sostanzialmente delle mail di questo signore, degli account di Facebook, facendo tutto un lavoro complicato a partire dalle vittime, vanno a risalire tutta la struttura di attacco per arrivare poi a delle mail che vengono attribuite a lui. E pare che gli hacker, quindi quelli super cattivi della Nord Corea, che sono i super cattivi per eccellenza, comunque prediligano Gmail come server di posta, nel senso che tutte queste mail sono tutte quante gmail.com, ci sono anche delle hotmail.com, poi c'è un account Facebook. È comunque tutta roba così, quindi se siete hacker super cattivi, Google è un buon posto dove fare le mail, evidentemente, perché ce l'ha tutte lì, ce l'ha, guarda, tutto, cioè guardate il disegnetto, è proprio pieno di gmail.com, gmail.com, ne aveva tanti, guarda quanti account c'avevo. E comunque pare che, insomma, questo genio del male e del crimine sia il super cattivo della no, l'hacker super cattivo del Nord Corea. Questo deve avere un testone proprio, perché per fare tutto sta roba. E quindi niente, vi lascio poi sul post del blog magari qualche riferimento, così vanno andate a approfondire da sole. È una vicenda tipo spy story, di quelle che ci si fanno poi anche i film. Ecco, magari la Sony potrebbe produrci un film, sarebbe fighissimo, no? Cioè la Sony, capito, che produce il film sull'hacker che ha bucato la Sony, è una sarebbe una bomba proprio. e vi lascio un altro po' di musica, vai, poi facciamo qualche altra notiziola sempre su questo genere. Di nuovo andiamo a parlare di il leak che aveva rilasciato WannaCry, ma questa volta per una vicenda collegata, nel senso che sono stati utilizzati comunque degli attacchi presi da lì, questa volta non collegata, forse, non si sa, ma forse al governo nordcoreano, ma a un gruppo di hacker altro, oppure invece poi magari sempre loro sono tanti super cattivi, si sa chi sono. Con questo tripudio di percussioni andiamo a introdurre la prossima notizia. Vi dicevo che di nuovo si parlerà di qualcosa che esce dal leak di Vol 7, cioè di questo materiale diciamo che è stato rilasciato l'anno scorso, credo, sì, era il 2017, mi sembra, sì, il 2017, su WikiLeaks, in uno di questi leak si faceva riferimento a un tool, non esattamente un... sì, un tool, un tool che si chiamava ChimeraHead, e che sostanzialmente permetteva di bucare e di prendere il controllo degli apparati della Mikrotik. La Mikrotik è un'azienda produttrice di mini computer, un po' se avete presente, che ne so, uno prima si compra il Raspberry, che è un po' fa il suo ma non è un granché, poi di solito se gli piacciono quegli scatolotti piccoli che fanno quelle cose lì si va a comprare il Mikrotik, che è un'altra azienda che fa queste cose un poco più performanti, insomma piacciono nel giro, piacciono, uno di solito dice sempre Raspberry e poi Mikrotik, non in quest'ordine, io li sono in quest'ordine. E poi più il Raspberry l'entry level, poi quando diventi bravo ti compri il Mikrotik. E comunque la Mikrotik produce anche dei router, sostanzialmente, visto che fa hardware, cioè si occupa essenzialmente di roba embedded, e produce anche questi oggetti. E in questo plico rilasciato da WikiLeaks di robe utilizzate dalla CIA si faceva appunto menzione di un tool per prendere controllo di questo tipo di router. Ecco, se voi guardate su GitHub, a un certo punto tipo di quest'anno, mettiamo un 8 mesi fa circa, 10, non lo so, non me lo ricordo più, comunque qualcuno su GitHub ha rilasciato un proof of concept. Ecco, oggi c'ho la bocca impastata dal fatto che sono andato a correre prima di fare la trasmissione e sono ancora in carenza di liquidi, evidentemente. Infatti ho avuto la bella idea poi di iniziare a fare subito la trasmissione, cioè a parlare a dritto, è proprio l'ideale. Comunque hanno rilasciato questo POC, che è più facile da dire di proof of concept, quando non c'hai la saliva è più facile dire POC. Comunque hanno rilasciato codesto oggetto che conteneva appunto una realizzazione di quello che veniva descritto in Vault 7 un'applicazione, diciamo, abbastanza funzionante. E da lì alcuni evidentemente che avevano studiato o autonomamente la cosa o hanno preso spunto, così è partita una campagna. Questa campagna di hacking prima ha interessato il più classico crypto mining, cioè i router venivano bucati e poi si cercava di utilizzare questo punto privilegiato che è il router per fare crypto mining con la rete che c'era dietro il router, ma di nuovo di recente è venuto fuori un altro possibile utilizzo, che è quello sostanzialmente se ho ben capito, che è quello di prendere controllo del router e anche più semplicemente per poter controllarne la parte riferita al SOX proxy, cioè un proxy generico fatto per proxare applicazioni diverse, prendendo il controllo di questa parte dell'infrastruttura. Ora non riesco a spiegare benissimo, meglio di così, senza fare dei disegnetti. È possibile sostanzialmente controllare il traffico, quindi guardare banalmente che succede su quella macchina, e pare che ci siano ancora tantissimi router vulnerabili a questo tipo di attacco, nonostante la patch sia stata rilasciata da un pochino, la patch per questo problema, perché ora il CVE è del 2018, che sarebbe l'annuncio, diciamo, pubblico che c'è un problema, ecco. E tendenzialmente la MikroTik ha rilasciato la patch credo da un paio di mesi, però si segnala che ci sono ancora, secondo dei ricercatori cinesi, 370.000 potenziali oggetti vulnerabili a questo tipo di attacco, che sono in effetti tanti, ecco. E quindi niente, siete un fan della MikroTik, ce l'avete a casa, ricordatevi di aggiornarlo, se no zac, arrivano subito anche questi qua del crypto mining o quell'altri che vogliono solo vedere cosa fate, e zuc lì, ecco. Quindi con quest'altra no, notizia, che senz'altro vi lascerà indifferenti, perché io non ce l'ho lì il MikroTik, non so se qualcuno di voi ce l'ha e lo usa come router, prenda provvedimenti, ma secondo me non è una cosa che tocca tutto il pubblico di Coccoli a Silicio, però io per dovere di cronaca ve lo devo dire, perché questo è il mio preciso dovere non è vero, è che in realtà scelgo le notizie sostanzialmente a peso, cioè quando leggo che ci sono tante cose, tipo 370.000, mi sembrava un numero grosso, no? Siccome il mio scopo precisamente è terrorizzarvi, allora io più i numeri sono grossi e più vi dico quelle notizie lì, ecco. Prima che parta il prossimo pezzo vi faccio un'aggiuntina a questo pool di notizie che vi ho dato, relative sempre a Vol 7 e a, diciamo, a possibili applicazioni delle cose che erano state rilasciate, in questo caso tutte applicazioni abbastanza fraudolente. E, il governo americano ha in realtà diciamo a giugno, una notizia che avevo saltato, però ora visto che si è riparlato di queste cose magari ve la dico sempre per dovere di cronaca, nel senso che hanno indicato un preciso responsabile, pare, per queste cose, nel senso che un programmatore che ha lavorato per la CIA a sviluppare essenzialmente malware e simili e che un po' di tempo fa era stato già finito, diciamo, nelle reti della giustizia americana in quanto in possesso di pedopornografia, è stato anche indagato dal governo degli Stati Uniti, indicato come la persona responsabile di questo leak. E in questo senso se la fanno e se la danno tutto da soli, praticamente fanno. E comunque questo signore, per tutte queste cose si arrischia tipo 130 anni di carcere circa, perché c'ha tipo tutte le accuse del mondo relative a al furto di documenti di proprietà del governo e super segreti e inerenti alla sicurezza nazionale. In più è anche pedopornografo, è anche lui è veramente un super cattivissimo, è veramente un super cattivo. Guarda, io sai cosa farei? Io lo manderei in Nord Corea, secondo me se lo merita, ecco. E comunque con questa chiosa alle vicende legate agli sviluppi legati al leak Vol 7, agli sbigutti anche tecnico-informatici fraudolenti legati a quel leak, vi faccio sentire un altro po' di musichina e poi continuiamo sempre con queste notizie del mondo della spy story hacking internazionale, gli stati, guerra, internet, queste cose qui, che in realtà vi faccio questa puntata così, molto da ripresa estiva, no? Perché comunque siamo ancora in clima un po' vacanziero, poi dalla prossima magari invece ci dedichiamo a qualcosa di più locale e interessante. Infatti volevo, se riuscivo la prossima settimana, trovare qualcuno del neonato E-Club fiorentino che avrà la sua base presso la polveriera in quel del centro diciamo di Firenze, e appunto volevo trovare qualcuno delle che sta frequentando le riunioni di questo neonato E-Club, che ci raccontasse un pochino di che cosa si tratta e che cosa hanno intenzione di fare, visto che so da un leak interno, perché si sa queste cose come vanno, che stanno lavorando a un fitto programma di iniziative autunno-invernali, e quindi magari era carino, visto che si sta praticamente nella stessa big city, che magari ci raccontino cosa c'è, così anch'io posso dire che ho spinto la nascita dell'E-Club, di un nuovo E-Club a Firenze, che era da anni che non c'era più molto, molto movimento nella scena fiorentina, ecco. E quindi ora ascoltiamo un po' di musichina, poi altre due notizie appunto di poco conto, di intrattenimento quasi estivo, e poi i saluti doverosi finali e l'appuntamento alla prossima puntata. Questo lo voglio dire dopo, perché se uno mi ascolta fino a qua sembra che è già finita la trasmissione, in realtà non lo è. Poi anche finale, cioè questi pezzi sono una roba, check me, boh, ma è, io fossi in voi mi andrei a cercare proprio questo album, e al posto di ascoltare me ascolterei questo album, perché comunque è molto esaltante secondo me. E la prossima notizia riguarda una cosa di cui avevamo già parlato le volte scorse, cioè normalmente la sicurezza dei vostri smartphone è sostanzialmente molto legata a seconda dell'oggetto che avete acquistato, cioè se state nel mondo Android oppure nel mondo Apple o in quello Windows, che è ormai poca roba, insomma se state in uno di questi due, voi ci avete lo store per scaricare le app, no? E quindi tutta la sicurezza di quello che installate, vi dico non installate le app fuori dallo store, che poi vi pigliate i malware, ecco. E allora uno cosa fa? Si fida e piglia le app dallo store. Poi uno dice, beh, però magari mi capita ogni tanto, vedo di andare sui siti, cioè che ne so che succede, allora mi scarico anche tipo un qualche tool che quantomeno mi aiuta a difendermi dagli spyware, mi aiuta a difendermi anche dagli adware, cioè da quelle pubblicità pop-up che ti appaiono in continuazione. Ecco, mi metto una roba del genere, no? E quando vado a scegliere quale scelgo quello che ha le stellette. Cioè ce ne sono tanti, ci sono tutti magari a 5 stellette, io ne scelgo uno di quelli che hanno 5 stellette. E infatti fa bene. E se non che è venuto fuori che un'app che si chiama Adware Doctor, che pare andasse forte tra gli adware, diciamo tra le protezioni da adware per i cosi della Apple, che ti vendevano a 4,99 €, ecco, è venuto fuori che sostanzialmente che succede? E in realtà questo coso rubava i dati e li spediva a un server cinese. Capito? E quindi te hai fatto tutto come ti hanno detto, no? Perché giustamente te ti sei comprato quell'oggetto che costa un sacco di soldi, no? Magari hai fatto anche la coda per andarla a comprare appena usciva, oppure sei riuscito a averlo dall'amico che lo cambia ogni 3 giorni, sei fiero di quell'oggetto, fai le cose come vanno fatte e ti scarichi l'app dall'Apple Mac App e poi ti scarichi sto coso che piglia tutti i dati e li manda al server cinese. Scherzo. E funziona così, boh. E questo è un pochino il mondo, cioè sostanzialmente se voi ci credete davvero che Google con l'Android e questi della Apple con l'App Store siano in grado di in qualche modo controllare a modino tutto quello che finisce su questi loro store e poi vi scaricate il malware. E ma non è che tanto il malware, cioè non è che sto dicendo che necessariamente è colpa loro che infondono falsa fiducia in questi strumenti tecnologici. E poi, cioè, tanto il malware ve lo potevate prendere lo stesso. E la cosa interessante è appunto che questi meccanismi di sicurezza sono meccanismi di falsa sicurezza. Cioè, tu quando pigli quel marchingegno elettronico non è che ti puoi fidare, capito? E ci sono solo delle prassi, ma la cosa meglio è che lo usi poco. Poco. Cioè, proprio la parola d'ordine è usalo poco, perché tanto comunque, cioè più tu lo usi e ha voglia a mettere l'antivirus e la adware e lo spyware e quello e quell'altro, cioè se ci stai a ruota è finita, cioè non lo devi usare poco, ecco. È l'ultima notizia che chiude questa puntata, è una notizia di fine agosto che a me ha fatto particolarmente ridere, nel senso che un signore si è svegliato una mattina e ha deciso che lui c'aveva questo Zero Day per Windows 64 bit, Windows 10 Ultra, l'ultima versione, quella super patchata. E lo rilasciava su internet così, cioè nel senso non ha fatto il solito, cioè non l'ha detto alla Microsoft, non l'ha venduta a nessuno, non si è rivolto a nessuna struttura, cioè ha fatto l'hacker, non ha fatto il percorso dell'hacker etico, diciamo, che prima t'avviso e aspetto e poi... E, insomma, ti do la possibilità di patcharlo. Sostanzialmente ha rilasciato un proof of concept per un escalation di privilegi su Windows che permette da un utente, diciamo, con pochi privilegi di diventare admin sfruttando un problema relativo al task scheduler di Windows, che non è proprio una parte inutile e marginale del sistema operativo, e ha rilasciato questo proof of concept su GitHub e poi l'ha postato su Twitter. E lì si è scatenato un attimo di putiferio, nel senso che gli analisti che si occupano di queste cose, quelli del CERT, l'hanno provato, hanno confermato e sostanzialmente hanno dovuto dire sì, effettivamente c'è questa cosa. Microsoft la patcherà probabilmente con un security patch in questo mese che viene, a settembre, però per ora non c'è una soluzione. Cioè, i sistemi rimangono vulnerabili e sono gli ultimi sistemi aggiornati. E quelli che quelli che teoricamente ti consigliano di installa sempre le ultime patch, no? E te le installate le ultime patch, ma mica bastava. E quindi niente, volevo concludere questa roba, diciamo questa puntata. Ho avuto queste due ultime notizie per buttarvi nel terrore, che poi non è un terrore, è semplicemente un ragionamento di comune e assoluto buonsenso, nel senso che se vi fidate di quegli oggetti maledetti tecnologici e non c'è speranza, che voi non vi dovete fidare, no. Non vi dovete fidare. E è buffo comunque quando accadono appunto queste cose, come accadevano una volta, che uno rilasciava il proof of concept uno rilasciava lo Zero Day. E poi sono un po' affari della mano. Tu dici, ma così ci rimettono anche gli utenti, che poi, capito, uno lo piglia. E che ti devo dire? Fa parte del gioco. Cioè, l'ha voluto internet. e adesso pedala.